Tessere false, brogli in meridione. Si alza il livello dello scontro nel Partito Democratico in vista delle primarie di domenica prossima. Intanto, mentre il segretario Franceschini invitava a mettere i calzini turchesi in solidarietà col giudice mesiano, stranamente Massimo D'Alema, nonostante il freddo, passeggiava con l'infradito in via Frattini.